English Bit di Giulia Crivelli. Outlaw. In a landmark step for animal welfare, Taiwan has outlawed the consumption of dog and cat meat, the first country in Asia to do so. Con una decisione storica per il benessere degli animali, Taiwan ha messo fuori legge il consumo di carne di cane e di gatto. È il primo paese in Asia a farlo. La notizia è di due giorni fa e tra i siti che le hanno dato più spazio c'è quello del National Geographic. La prima parola che ci interessa è outlaw, con law scritto L-A-W, che può essere sostantivo e nome, come verbo irregolare. To outlaw, outlawed, outlawed. Poiché law vuol dire legge e lawyer avvocato, il significato è mettere fuori, out, legge. There are plans to outlaw the carrying of knives. Ci sono piani per impedire per legge di portare con sé coltelli, diremo in italiano. The Nationalist Party was outlawed. Il partito nazionalista fu dichiarato illegale. Il sostantivo indica soprattutto un fuori legge. È un termine meno duro di altri, però, come criminal, criminale. Per esempio, Robin Hood, the world's most famous outlaw. Robin Hood, il fuorilegge più famoso del mondo. Out dà origine a moltissimi verbi. To outrun significa correre più veloce. To outsmart vuol dire superare qualcuno in intelligenza. To outsource, non lo traduco neppure più, sappiamo che vuol dire appaltare, dare in gestione esterna. To outvote significa battere qualcuno in un'elezione. Un'altra parola interessante del titolo del National Geographic è landmark, letteralmente segno sulla terra. The Empire State Building is a familiar landmark on the New York skyline. L'Empire State Building è un elemento che caratterizza la skyline di New York. Poi c'è il senso figurato, come nel titolo del National Geographic. The ceasefire was seen as a major landmark in the fight against terrorism. Il cessate il fuoco fu visto come una tappa fondamentale nella lotta al terrorismo. Impossibile non notare welfare, che significa letteralmente benessere. We are concerned about the child's welfare. Siamo preoccupati per le condizioni di salute del bambino. Poi naturalmente c'è l'accezione che tutti conosciamo perché ogni lingua l'ha mutuata dall'inglese senza tradurla. The state is still the main provider of welfare. È lo Stato a farsi carico della maggior parte delle misure di welfare.